chi respira polvere, chi respira vento, in alto raffiche di nuvole, giù il deserto, e fionde silenziose mirano gli aquiloni, e pietre insonni si rivoltano nei pugni soli. Chi respira cenere, chi respira amianto, i piedi sulla sabbia corrono più del pianto, e mani aperte che si levano come scudi, e bombe sulla spiaggia piovono come sputi. Chi respira ancora e chi respira stento, chi a volte svelto la sua vita, chi a rilento, venuti al mondo giù invisibili, come droni, strisciando al buio poi decollano, come ieroni. Fintanto è guerra, io voglio stare con te, nei tuoi occhi chiusi. Fintanto è sera, io resto ancora con te, nei tuoi pensieri. Fintanto è spera, corri ansimo in te, nei tuoi respiri. Fin tanto quel cielo nero giù non cadrà, restiamo amici. Chi respira pioggia, chi respira fango, e le parole stanno uscendo ora dal mio canto, ad una prigioniera in gola del silenzio, senza catene per rinchiudersi ancora nel mio sgomento. Chi respira niente e chi respira tutto, chi ha orecchi come radar ma non sente, occhi e prosciutto, chi è insanguinato col suo odio rapace o col suo dio, chi ha il viso stanco, chi non è capace. Sì, pure io, fin tanto che pace sto a giocare con te, tra gli aquiloni, fintando luce giù in spiaggia corro con te, nei tuoi sorrisi, fintando.